771. Spumone di tè. Panna montata come quella che preparano i lattai, grammi 250, acqua grammi 200, zucchero grammi 100, tè del più buono grammi 15, rossi d'uovo numero 3, colla di pesce fogli 3. Versate l'acqua bollente sul tè e tenetelo così infuso, in stato quasi di ebollizione, per 40 minuti. Poi passatelo da un pannolino, strizzando forte per estrarne tutto il sapore, e vedrete che apparirà nero come il caffè. Con questo liquido, coi rossi d'uovo e con lo zucchero, farete una crema come quella del numero 753 e, regolandovi nella stessa guisa, aggiungerete la colla. Poi unirete la crema alla panna montata mescolando ad agio e, versato il composto in una forma da gelati, la porrete fra il ghiaccio e il sale come il biscuit. Potrà bastare per 8 persone.